sono le 18. Tocca a me, tocca a me. Vado, vado. È un mondo difficile. Però M2O, beccati ciò. Sono Gigi D'Agostino, questo è il mio, il nostro, il vostro, quello di tutti, il cammino. E oggi non va al sondaggino, niente, non c'è sondaggino. Prepariamo la borsa che contiene la musica della serata che andrò a fare questa notte a Rieti, alla discoteca Duchessa. Prepariamo la mia valigia musicale per stasera, la prepariamo insieme. Prepariamo la mia valigia musicale per stasera, la prepariamo insieme. Siete d'accordo? Non ricevendo risposta, decido io. Andiamo ad ascoltare un po' di cose e scegliere, cioè se ci piacciono le portiamo con noi questa sera e le suoniamo, eh? Iniziamo questa, ecco, questa per esempio, come sentiamo un po', sentiamo. Andiamo ad ascoltare un po' di cose. Questa, ecco, questa per esempio. Se spacca, la porto con me. Questa, ecco, questa per esempio. Se spacca. Ascoltare un po' di cose. Questa, ecco, questa per esempio. Se spacca. Andiamo ad ascoltare un po' di cose. Questa, ecco, questa per esempio. Se spacca, la porto con me. Questa, ecco, questa per esempio. Se spacca, la porto con me. Se no, desisto. È forte? Sì, senti qua, senti qua.

manine al cielo, tutti. Ci sono dei brani che non hanno nessuna voglia di scherzare, perché contengono tantissimi ricordi, momenti indelebili. Gioie, dolori, e ogni volta che suonano ci raccontano tutta la loro storia. Continua la campagna contro i DJ noiosi. Quei DJ che in discoteca ci suonano i loro problemi. Ci fanno ascoltare le loro lesioni. E non va bene. Andate a lavorare. Basta! E cosa c'è da piangere? Se il pubblico non rimane lì ad ascoltare le vostre malattie, vi mettete a piangere e fate i vostri soliti capricci alternativi. Quella roba lì ve la ascoltate a casa vostra. Noi veniamo in discoteca per divertirci. Vogliamo... Hai capito? No, è che a volte comincio a dire una cosa e poi mi sfuggono le parole. È incredibile. Cioè, io quando comincio a parlare lo so cosa c'è. Sono qui e dico, adesso dico quella cosa lì. E mentre la penso comincio a dirla. Ma mentre la dico, ecco, tipo adesso.

Se non ti piace così la storia, la scrivila tu, magari più bella. Magari più bella.